Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Via Zanardi, Radio Città Fujiko, un last minute atipico in quanto ieri si è tenuta questa anteprima del film candidato all'Oscar per il miglior film d'animazione. Ne abbiamo parlato in diversi format, abbiamo dato la possibilità tramite quiz anche con il Breakfast Club. Anzi, vorrei sapere una recensione di chi ha assistito la proiezione per questo lavoro, il regista Pablo Berger, candidato all'Oscar per il miglior film d'animazione. Ieri alle 16 era a disposizione per scambiare due chiacchiere e presentare emozioni, microsensazioni, percorsi di lavoro. A tal proposito ringraziamo Bologna Pop-up Cinema Jolly per quanto riguarda questa anticipazione per il film, per il lavoro, per meglio dire, portato dal regista, che come prime battute afferma: con il mio amico robot volevo tornare all'essenza pura del cinema, ma questa volta da un'altra angolazione. E con le parole del regista e la conversazione tenuta da Alberta La Viola, che ringrazio tantissimo per la collaborazione con Radio Città Fujiko nella direzione, anzi per meglio dire, scusate, nella redazione giornalistica. Sapete che abbiamo percorsi con giovani redattori, ottimo lavoro per Alberta, che ringrazio ancora una volta. Sentiamo la nascita, il percorso del lavoro d'animazione, il mio amico robot, direttamente con le parole di Pablo Berger. The film Robot Dreams is based on a graphic novel of the same title from Sarah Baron, Robot Dreams. I read it, I loved it, I thought it was funny, I thought it was surreal, I thought it was very emotional. And the end moved me so much, it brought me to tears, that I decided to make a film for that reason, because I thought the film was wonderful and because the main characters are anthropomorphic. E il film è basato su una graphic novel che ha lo stesso titolo, Robot Dreams, di Sarah Baron. E quando l'ho letto questa graphic novel l'ho trovata divertente, reale, piena di emozioni, e mi è piaciuta da morire e mi ha commosso talmente tanto che ho deciso di farci un film. E siccome i personaggi della graphic novel sono antropomorfi, ho deciso che per la prima volta potevo fare un'animazione. È un film che parla di relazioni, parla di perdita e di memoria. Volevo chiederti se effettivamente queste potessero essere le parole per introdurre la visione del film a qualcuno che si siede in sala. Yes, these are universal feelings and emotions that everybody has experienced. Spanish, Italian, Japanese, American, it doesn't matter where you're from, you have gone through those emotions. So beh, sì, credo che questi sono effettivamente sentimenti che tutti noi abbiamo, prima o poi comunque sperimentiamo e proviamo, che da qualsiasi parte del mondo veniamo. E quando ho letto il libro, quando ho letto la graphic novel, devo dire che io ho fatto una sorta di trasferimento. Per me il robot e Dog per me erano delle persone che io avevo perso, e quindi mi sono immedesimato, le ho immedesimate in quei personaggi. Quindi siccome il film per me, questa storia riguarda anche molto l'elaborazione del lutto, credo che appunto possa essere per le persone anche una possibilità per pensare anche loro, avere la stessa esperienza che ho fatto io con il libro. Brazilian Fusion, parte degli Azimuth, la produzione di Madlib con Jackson Conti. Troviamo una formazione da cui molti elementi presenti nel supergruppo degli Azimuth. Dog vive a Manhattan, è stanco di stare sempre solo, si costruisce un robot. Sulle note degli Earth, Wind and Fire, della travolgente musica newyorkese degli anni Ottanta, la loro amicizia sboccia e si fa sempre più profonda, finché una sera d'estate Dog si trova costretto ad abbandonare Robot sulla spiaggia. Riusciranno i due amici a ritrovarsi? Per quanto riguarda Pablo Berger, qui al suo esordio nel cinema di animazione, una storia sull'importanza dell'amicizia e sulla sua fragilità, sul distacco, sul desiderio di ritrovarsi, premiata ad Annecy e candidata all'Oscar, oltre che celebrato a Cannes come miglior film di animazione. Nella seconda parte di intervista parleremo anche di pubblico con il regista, nella conversazione tenuta da Alberta La Viola. E che questo film è un film veramente per tutti, perché non avendo parole, non avendo dialoghi, tutti lo possono comprendere. E a partire da questo, anche qui volevo sottolineare quanto fosse per tutti, anche in senso generazionale. La trovo una cosa molto bella e volevo sapere appunto il tuo punto di vista su questo. So this is a film for young adults, children, everybody. So because it's it has no dialogues, so it's easy to understand, and it goes through generations. So if you can comment on this. Yes, this is my fourth film, and from all of them is the most open. You know, definitely this is a film for cinephiles, but this is also a film for people that go to the cinema once a week to have a good time. Vede, io ho fatto quattro film e sicuramente questo è il più aperto dei miei film. È un film, può essere un film per cinefili, può essere un film per qualcuno che va al cinema una volta alla settimana per passare due ore così in allegria o spensierate, può essere anche un film per bambini. È un film da cui io non voglio escludere nessuno, e credo che sia un film, mi sento di paragonarlo a una lasagna, nel senso che è un film che ha tanti strati e quindi ogni strato va bene per un'età diversa, un pubblico diverso, quindi può andare bene per un bambino di 3 anni come per un adulto di 103 anni. Un'ultima domanda, una curiosità, se hai un personaggio preferito. So the curiosity, what's your favorite character if you have one? Yeah, yes. Apart from the main character, Dog or Robot, my favorite character is the octopus that is a street musician that is playing with the buckets in the subway. That's my favorite. Thank you. A parte i personaggi principali di Dog e Robot, per me mi piace moltissimo la piovra che suona la batteria della metro. Grazie. Eccoli qua, gli Earth, Wind and Fire. Hey! che è accompagnato dalla musica degli Earth, Wind and Fire. Chissà, magari è presente il capolavoro fantasy, magari con il mio amico robot aggiungiamo ovviamente sempre e comunque una fantasia, ma che è quanto mai concreta, riguardante amicizia, il ritrovarsi, ma anche il distacco. Il regista Pablo Berger ai microfoni di Radio Città Fugico in questo Last Minute. E a breve con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi, una nuova puntata del Voltiamo Pagina, libri a colazione. Mi raccomando, 333 180 9494.